Luoghi d'arte. Un saluto da Marco Carminati, sono a Firenze e mi trovo proprio alle spalle del Duomo, della chiesa di Santa Maria del Fiore, dove si trova il Museo dell'Opera del Duomo, cioè il museo che raccoglie le opere d'arte che sono state riparate dalla cattedrale dentro il museo perché hanno avuto bisogno appunto di trovare un luogo più sicuro. Questo museo venne fondato nel 1881, tra l'altro in un luogo incredibile, era lo stesso luogo dove Michelangelo ha scolpito il Davide, era un'officina che si trovava dietro la cattedrale. Questo museo ha cominciato quindi nel 1881 a raccogliere le opere che necessitavano di essere portate dalla cattedrale al sicuro in un ambiente museale, e ultimamente, alla fine degli anni 90, ha potuto acquisire un grande immobile che stava alle sue, anzi che sta alle sue spalle. Questa acquisizione ha portato oggi all'inaugurazione del grande museo dell'opera del Duomo, perché le superfici sono veramente decuplicate, si sono veramente ingrandite. Tra l'altro è stato possibile ridisegnare tutto quanto il percorso grazie all'opera degli architetti Natalini e Guicciardini e dello studio Magni, per offrire una spettacolare collezione di sculture medievali e rinascimentali, probabilmente la più importante che abbiamo in Italia, perché qui si incontrano opere importantissime di Michelangelo. Pensate alla Pietà Bardini, che è la pietà che Michelangelo scolpisce per la propria tomba, destinata alla propria tomba, ma qui ci sono i capolavori di Arnolfo Di Cambio, ci sono le cantorie di Donatello, le cantorie della Robbia, le statue dei Pisano e di Pollaiolo, le porte, soprattutto le porte, che grandi porte del Battistero, che hanno negli anni avuto bisogno di essere ricoverate lì dentro, oggi le possiamo addirittura vedere montate nella loro vastissima struttura proprio all'interno del nuovo Museo dell'Opera del Duomo.